Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune rapide informazioni, ormai le conoscete. Il primo è il nostro sito radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate o sul Sole 24 Ore o sul sito di Radio 24, sotto il mio profilo o con un qualunque motore di ricerca. La seconda informazione è quella che riguarda la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, chi ci segue da tempo sa che spessissimo abbiamo affrontato il tema dell'usura, che è uno tra i peggiori abusi, visto il nome anche della mia trasmissione, peggiori abusi che si possano subire, perché ledono non soltanto ovviamente la parte economica, ma soprattutto la dignità della persona, oltre ad essere ad avere un effetto devastante sulla società. Allora, alcuni anni fa, quando a Radio 24 avevo un'altra trasmissione che si chiamava Guardie o Ladri, proprio come il mio blog, raccontammo una storia, storia di Francesco Ottalevi, che denunciò gli usurai ad Anzio. A seguito di questo ha fondato anche un comitato anti-racket, ma a distanza di anni da quando noi trattammo quel caso, anziché migliorare la situazione, quindi avere intorno a sé una rete di solidarietà e anche una facilità di rapporti non solo economici ma anche sociali, la cosa si è purtroppo complicata. Ed allora noi la puntata di oggi e quella di domani la dedicheremo al tema dell'usura, partendo da Roma, da questa storia, ci troviamo ad Anzio, ed arrivando fino a Torino. E nell'ordine noi sentiremo chi? Ma ovviamente innanzitutto Francesco Ottalevi, al quale do il buongiorno. Buongiorno dottore. Poi sentiremo nel corso di queste due puntate anche altri ospiti che presenteremo di volta in volta. Allora, Ottalevi, racconti brevemente la prima parte della sua storia, cioè la denuncia, ma soprattutto quello che mi interessa capire è che cosa è successo nel frattempo. Quali muri di gomma ha trovato e perché si trova oggi in difficoltà? Dunque, la difficoltà sta nel fatto che le leggi, le istituzioni, alcuni funzionari non sono in grado, le leggi sono inadeguate, i tempi sono lunghi. Ad esempio, dopo la denuncia è successo che io per forza di cose ho dovuto abbandonare la città in cui vivevo, cioè Anzio, e mi sono dovuto trasferire fuori per motivi di sicurezza mia e della mia famiglia. Quindi da lontano è ancora più difficile riuscire a gestire quelli che sono i rapporti professionali, che sono praticamente diventati inesistenti. Quindi il primo dramma, questo dico ai radioascoltatori per mettere i puntini sulle i, come si dice, il primo dramma è stato che Ottalevi ha dovuto lasciare la sua città. Voglio dire, quanti di noi trovandoci in quelle condizioni si comporterebbero come Ottalevi, cioè continuerebbero a fare una battaglia di legalità? Quindi pensate che cosa vuol dire essere strappati dalla propria terra e andare altrove. Prego Ottalevi, continui. Grazie. Niente, dopodiché praticamente la trafila che fa qualsiasi persona che è nella mia situazione è quella di, ovviamente aiutato da un'associazione quale la GISA, rivolgermi alla prefettura di Roma per chiedere l'accesso al fondo per le vittime dell'usura, ma anche qui le prime difficoltà. Sono 4 anni che è stata presentata la domanda, nel frattempo non si sa niente, ovviamente, perché la burocrazia è quello che è, le leggi sono quelle che sono, ma nello stesso tempo, nonostante magari la solerzia di alcuni pubblici funzionari e diciamo meno voglia di interessarsi a questo tipo di problematiche da parte di altri, sono cambiati 3 dirigenti, 4 dirigenti, adesso non ricordo cosa è successo, e ogni volta bisogna ricominciare da capo. Certo. Bisogna ricominciare a spiegare qual è la situazione. Certo. E di conseguenza quello che è pesante è che questi signori, questi dottori, non si rendono conto che la difficoltà di una persona in queste condizioni è giornaliera. Per loro far passare 7, 15, 20 giorni non significa nulla. Per loro è lavorare, anche perché molto spesso i dirigenti che si occupano di usura hanno altre cariche. Ad esempio adesso quello che occupa il settore usura è un dirigente della protezione civile, quindi mi sembra alquanto difficile. Insomma c'è uno scollamento e comunque una scarsa attenzione, questo possiamo dirlo, una scarsissima attenzione a quelli che è il problema del certo. A quelli che sono non il problema dell'usura, perché il problema dell'usura, ecco, l'ha dimostrato la provincia di Roma schierandosi al mio fianco l'assessore Visintin. Ecco, ma poi ci arriviamo, io la fermo un secondo Ottalevi, perché mi pare che la situazione sia purtroppo comune a migliaia e migliaia di persone in tutta Italia. L'usura colpisce centinaia migliaia di persone. Recentemente c'è stato anche uno studio di SOS Impresa che parlava di qualcosa come circa 37 miliardi di euro. Ottalevi richiamava un'associazione, una tra le tante che si occupano di dare, come dire, un contributo fattivo a chi denuncia, ed è Agisa, la rete degli sportelli antiusura della provincia di Roma. Noi collegata abbiamo Lucia Brandi, che è la coordinatrice. Buongiorno Brandi. Buongiorno a lei. Allora, quanti casi Ottalevi esistono nella provincia di Roma? Cioè, quanti casi di persone che denunciano e si trovano in questa condizione indecorosa per la dignità umana di una persona come appunto Ottalevi? Guardi, persone ce ne sono diverse decine. Devo dire che il numero è sottostimato, perché quelle che denunciano sono sempre la famosa punta dell'iceberg. Certo. Le denunce sono sempre molto poche. Le denunce sono poche per paura di ritorsioni, sono poche per sfiducia nelle istituzioni, nel senso della lungaggine dell'iter della pratica, nonché anche tante altre problematiche, perché non tutte le persone che sono state vittime di usura a loro volta senza peccato, quindi la casistica è molto ampia, varia. Certo. Ma volendo parlare proprio della vittima nel senso corretto del termine, ecco, non tutte le vittime denunciano. Ecco, la ma io vorrei parte di coloro che non denunciano per paura. Ecco, io vorrei chiederle questo, Brandi, quante persone si trovano in queste condizioni di denunciare, trovarsi dopo 4 anni ancora a mendicare allo Stato ciò che sarebbe giusto che lo Stato riconoscesse loro? Cioè, allora, delle pratiche che sono passate dai nostri sportelli, praticamente è così quasi per tutti, cioè l'eccezione è l'iter della pratica che si svolge in tempi rapidi, è veramente l'eccezione. Ci sono naturalmente tante difficoltà. La prima difficoltà è quella di provare il danno subito, perché, come certo, è noto, la legge dà diritto ai benefici della legge 108 del 96, cioè per coloro che hanno denunciato l'usura e sono imprenditori economici, consistente in un mutuo decennale senza interessi per reimmettersi nell'economia legale, che è pari al danno subito. Oh, io la fermo un attimo. Io la fermo un attimo. Prego. Bene, la fermo un attimo, Brandi, perché volevo tornare da Ottalevi e chiederle questo qui. Ma chi è nella provincia di Roma, ad Anzio, che gestisce questo flusso di denaro che viene dato in prestito, si fa per dire ovviamente, cioè c'è la mano della criminalità organizzata dietro oppure no? Lo dico perché qualcuno ancora crede che l'usura sia fatta dai cravattari, no? Soprattutto perché ci troviamo a Roma. Da cane sciolto. Ecco, appunto. Ci spieghi un po' invece lei com'è la situazione, Ottalevi? Guardi, allora, per quanto riguarda un gruppo di persone che io ho denunciato, le posso dire che attualmente 3 persone sono state rinviate a giudizio, una di loro è già agli arresti, ed è stato appurato che praticamente con il pagamento degli interessi mensili che io effettuavo insieme ad altri imprenditori che come me, io arrivavo a pagare tra i 7 e i 10 mila euro al mese di interessi, questi signori li reinvestivano nel narcotraffico, cioè è venuto fuori un'organizzazione vera e propria formata da 18 persone, 15 di etnia rom, che dalla Spagna importavano cocaina nel Lazio. Allora, questo qui è un circolo vizioso, ovviamente, che alimenta questa catena dell'illegalità, della criminalità organizzata, siano associazioni, come dire, a delinquere di stampo mafioso, siano associazioni a delinquere invece che fanno capo ad etnie rom. Alcune etnie sono molto abili nel narcotraffico, fatto sta che comunque questi soldi entrano in un circuito illegale ad altissimo livello, e non si parla certo dei vecchi cravattari romani che a volte nei film venivano anche dipinti in maniera quasi, come dire, romantica. Allora, noi ci fermiamo qui con la prima puntata. Per chi fosse interessato, ricordo che in edicola c'è il mio libro Economia Criminale, si vende con il Sole 24 Ore in questi giorni, e di usura e dell'usura organizzata dalle reti criminali ne parlo moltissimo, soprattutto in Liguria, che è strozzata da questa piaga. Domani torniamo a parlare di usura con nuovi ospiti. Io ringrazio quelli che finora ci hanno seguito, grazie quindi a Ottalevi e Brandi, in regia Peter Bescapè, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani, parliamo ancora di usura.